Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, gentili ascoltatrici, buonasera, un saluto affettuoso da parte di Gesi e Antonio. Allora Antonio, siamo qui anche stasera per tenere compagnia. Per intrattenere così i nostri amici e i nostri amici, speriamo in modo piacevole. Diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte e suggerimenti che è il 346 23 20 033. È anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un saluto al nostro regista. Questo sempre. Ecco, e questa sera abbiamo un ospite virtuale che è il signor Giovanni Salvador da Mareno di Piave. E come titolo di studio diploma di radiotelegrafista di bordo a grado, poi diploma di perito commerciale e ragioniere, istituto tecnico statale Fanno di Conegliano, nel 2011 diploma di laurea triennale in storia, facoltà di lettere e filosofia a Ca' Foscari Venezia con 110 lode con tesi su Conegliano. Poi vediamo che ha praticato e pratica attività sportive e agonistiche di rilievo, quali sci alpino, sci nordico, judo, vela, eccetera, oltre ad altre importanti caratteristiche. Sì, ecco. E poi ne parlerà lui. Certamente. E adesso Giovanni lavora, adesso non mi ricordo da che anno, lavora all'Unica Ditta di Conegliano e pur lavorando è riuscito a laurearsi. Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi l'avremo al telefono, lo sentiremo. La canzone, beh, è una canzone, siccome a Conegliano c'è un buon prosecco, ci ascolteremo da Orietta Berti, Bevè, Bevè, compare. Bevè, Bevè, compare, se no te masserò. Il bosco me masserò, mi tutto e beverò. E i tanche beveranno, i tanche e la bomba va, la bomba va, la bomba va. L'ho bevuto tutto e l'olma ha fatto male. L'acqua fa male, il vino fa cantare. Questa è la regola che insegnano gli squisseri. Alzano il gomito e vuotano il bicchiere. L'acqua fa male, il vino fa cantare. Bevono i nostri padri. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. Del bianco moscatello. E del nero margevi. Se ne avessi un botticello ne vorrei vederla fi. Se ne avessi un botticello ne vorrei vederla fi. Bevevano i nostri padri. Sì. Bevevano le nostre madri. Sì. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. Del bianco moscatello. E del nero margevi. Se ne avessi un botticello ne vorrei vederla fin. Se ne avessi un botticello ne vorrei vederla fin. Bene, torniamo in studio e fra qualche secondo avremo Giovanni Salvador in linea che ci parlerà della storia di Conegliano. Come ho detto prima, Giovanni lavora all'Unicredito di Conegliano e pur lavorando è riuscito a laurearsi. Pronto? Pronto? Ciao Giovanni. Buonasera. Ecco qui, buonasera, c'è anche ben Antonio. Trovato. Buonasera a tutti, ciao. C'è anche Antonio, sì, il collega. Ecco. Allora Giovanni, dopo in ultimo, se c'è un po' di tempo, ci parlerai anche delle tue prodezze sportive, vero? Intanto ci parli un pochino della storia di Conegliano. Volentieri, volentieri. So che allora... ti sei laureato, come abbiamo detto prima, con 10 lode, quindi... 110. 110, sì. Come mai? Ho avuto fortuna. Come mai ti sei... mi sono dedicato un po' alla storia per capire un attimino cosa mi circonda, il mio ambiente, ecco. E la mia tesi in particolare ha colto un aspetto che spesso viene un po' trascurato, cioè quello delle trasformazioni che vengono solitamente viste sotto l'aspetto visivo, mentre io ho cercato di vedere questi mutamenti anche sotto un altro aspetto, quello sonoro e quello olfattivo, diciamo, che spesso vengono ignorati, sono mutazioni che spesso appunto sotto questo aspetto vengono ignorate. E che poi sono molto importanti, fra l'altro. Sì, perché noi, ma essendo io, perlomeno da cieco assoluto, il paesaggio che mi circonda non è fatto di forme e di colori, ma di suoni, profumi, di odori, pertanto... Esatto. Questo è stata diciamo l'input, e poi ho cercato appunto di costruire, perché il mio percorso è un percorso ritroso che parte dall'undicesimo secolo per arrivare fino ai giorni nostri, e chiaramente da rumori, odori del passato li ho un attimino immaginati in base alle fonti che ho appunto letto, e da documentazioni storiche e da interviste a storici, ecco. Comunque, Giovanni, il fatto di godere di un paesaggio anche attraverso l'olfatto e è molto importante, ma non solo per chi non può vedere le bellezze, ma anche per chi le vede, perché è un arricchimento. È un arricchimento. Decisamente. Per me sono dei punti di riferimento, perché ecco che si gira dove c'è l'odore della pizza, oppure là si è vicino al tratto di strada che è un po' così sollevato, alle piastrelle, là sai che c'è. Ci sono dei toponimi dati da queste. Qui si percepisce, ecco, il paesaggio che ci circonda può essere bello in base agli odori, magari di certe piante che ci sono, oppure di come è il percorso dove si cammina, perché si percepisce con i piedi, si percepisce il suolo, se è liscio oppure sollevato dalle radici, mentre col naso si è bello o brutto in base agli odori che si sentono. Purtroppo, ahimè, gli odori che prevalgono sono quelli dei gas di scarico delle automobili. Quello è il paesaggio, e il rumore è questo ronzio di sottofondo che ormai è diventata la nostra colonna sonora. Ecco. Esatto. Vabbè, comunque, guarda che come so che Paolo Limiti nelle sue trasmissioni diceva sempre che una canzone, o ascoltare una canzone o un profumo, brava, ecco, possono ricordarti tante cose. Certo, ma poi sono mutamenti che bene o male influiscono, hanno influito e influenzeranno anche il nostro modo di essere, di comportarsi. Io scusa se ti faccio una piccola parentesi, è come ad esempio le mani. La gente non dà molta importanza alle mani, e pensare che le mani hanno un'importanza come gli occhi. Ma non per chi ha bisogno di usarle più spesso di un altro, ma anche proprio dalla mano tu capisci tante cose. Vabbè, certo, Giovanni certo. Ti lascia la parola. Sì, ecco, allora volevo... E Conegliano appunto, sapete che sorge su una sommità del Colinare, dove c'è la torre, che è l'antica torre, che è il simbolo, diciamo, di Conegliano. Su questa sommità collinare, attorno all'undicesimo secolo, si sono insediate delle ricche famiglie delle conegliane, dei dintorni, diciamo, per ripararsi dalle scorrerie militari di allora, perché c'erano gli ungari che giravano, e quindi era un po' pericoloso. Si sono unite in una forma di consorteria costruendo delle mura, due cinte murarie. Quindi immaginiamo rumori di guardie, di passi, di grida e di ferramenta, di spade che probabilmente da quel tempo venivano forgiate a Ceneda. E poi attorno a una fortezza si creano mestieri, lavori e tutto ciò che una fortezza può richiamare attorno a sé. E rumori, odori che ovviamente persone, diciamo, che in questa fortezza, con l'andare del tempo, diventa troppo piccolo per contenerli tutti, e quindi piano piano diciamo il borgo si allarga fino giù alle pendici, fino alla sommità del colle. Scusa Giovanni, allora Conegliano nasce in sostanza come un piccolo borgo. Sì, nasce come una fortezza per ripararsi, sì. Poi attorno alla fortezza ovviamente a questi signori ci sono degli artigiani che lavorano per questi signori, botteghe, mestieri, e piano piano aumenta e questo spazio diventa troppo piccolo per contenerli tutti, quindi ecco che si estende fino alla sommità del colle, all'appendice del colle, con la dove c'è la via 20 settembre per intendersi. A metà più o meno del XIV secolo, siamo attorno al 1329 circa, famiglie come gli Scaligeri costruiscono un'ulteriore cinta muraria, la terza cinta muraria, che è proprio a ridosso all'inizio delle pendici del colle, dove quella che delimita viale 20 settembre. Successivamente anche sistemata dai Cararesi, ecco, sono le famiglie che prima che arrivasse la Serenissima erano le padrone del Veneto, le ricche famiglie. Chi c'era? I Cararesi? Cararesi, Collalto? Caligeri, ma i Collalto loro hanno una storia a parte, perché i Collalto sono nella loro contea, e no, sono i da Camino e così, sono più altro quelle famiglie, i Cararesi, da Camino, i Scaligeri. Poi c'erano le contee vescovili con la sua Follina, eccetera. Però con Aliano, diciamo, ha avuto gli Scaligeri e i Cararesi. Poi è diventata, intorno al 1404-1405, è diventata podesteria veneziana. E appunto dicevo che viene costruita una terza cinta muraria, al ridosso della quale viene costruito anche il Refosso, che è un canale che collegava il fiume Monticano al Ruio, sono i due fiumi che a est e a ovest, diciamo, passano per Conegliano, a est e a ovest della collina. E, probabilmente questo fosso veniva usato anche come scolo delle acque. Immaginiamo che a quel tempo non c'era l'acqua corrente, quindi possiamo immaginare che odori potevano esserci, scolo di acque scure, eccetera. E anche a quel tempo non c'era, appunto, come dicevo, l'acqua corrente, e le persone solitamente non è che si lavassero molto, quindi anche con odori particolari. Sì. E, ecco, Conegliano conosce il suo primo boom economico appunto con la Serenissima, perché la Serenissima concedeva degli sgravi fiscali a coloro i quali aprivano sui suoi territori delle attività. E Conegliano, diciamo, è particolarmente fiorente in questo primo periodo del XV secolo, siamo attorno al 1405 in poi, sì. Perché arrivano moltissimi fabbri, ciabattini, conciatori di pelli, perché ecco, abbiamo delle testimonianze di pellegrini che arrivano a Conegliano e sentono un odore terribile, che in pratica era le pelli di bue messe essiccate al sole sull'argine del Monticano, perché appunto là le facevano le concerie, quindi immaginiamo gli odori che potevano esserci se al giorno d'oggi passiamo per andare a Verona, sulle zone del Vicentino, del Concerio. Esatto, il Chiampo, da quelle parti. Quell'odore caratteristico, quindi c'era anche allora quell'odore là. E, ecco, poi con Venezia appunto sì, ha questo boom economico, e poi diciamo sempre attorno al XIV secolo, con l'impiego delle armi da fuoco, la difesa delle mura diventava vana, e Conegliano si estende anche al di fuori della terza cinta muraria con dei borghi, il famoso Borgo Vecchio, che è dove c'è la chiesa dell'Immacolata di Lourdes, Immacolata Concezione? Sì, sì, la adesso, va bene, il Collegio Immacolata, il Collegio Immacolata. Un po' emozionato, non ti preoccupare, stai tranquillo. Non c'è motivo. Ecco, è questa appunto questo Borgo Vecchio, piano piano, che è appena oltre il fiume Monticano, e lungo il vecchio percorso della strada che porta a Treviso, che era, diciamo, il vecchio percorso della statale Pontebana, e là si estende questo borgo, c'è il Borgo Vecchio, e poi più in giù c'era il borgo delle tre cerchie murarie, dove c'erano i Cerdoni, la confraternita dei Cerdoni, che è, diciamo, all'altezza di Piazza Duca d'Aosta. E ecco, loro, Ciardoni in particolare, erano famosi per le pelli, cacciatori di pelli, mentre all'altezza del ponte di San Martino, ponte di San Martino che è stato costruito a fine 800, perché prima c'era una passerella di legno, fino al 1850 più o meno c'era una passerella di legno per attraversare il ponte di San Martino, e al di qua del ponte c'era la piazza delle Pecorelle, dove i pastori da Mareno e tutta la zona, perché a quel tempo le terre erano comuni, non c'era proprietà, quindi con le pecore, le tutti mucche, potevano venire a pascolare. Tutti potevano venire a pascolare, e qua in particolare in questa zona, piazza delle Pecorelle, che è la piazza 4 novembre di oggi, là c'era la piazza dove si tosavano le pecore, e quindi c'era questo, ovviamente, rumori di cani, fischi, pastori, e possiamo immaginare. Là accanto c'era la confraternita dei frati di San Polo, che loro erano particolarmente intraprendenti, perché con le acque del Monticano azionavano i telai e diciamo lavoravano la lana, era un importante opificio anche loro. Conegliano, ricordiamo che Conegliano è il paese del Cima, che arriva dal cimatore della lana, quindi è la sua caratteristica. Ecco l'etimo, quindi. Sì. Cosa dicevi, Guicciardone? Di cosa prima parlavi dei Ciardoni? Ah no, i Ciardoni, è una confraternita, una confraternita di Ciardoni, che è l'altezza del piazza Duca d'Aosta. Più o meno loro erano una confraternita, che la loro particolarità era quella della lavorazione delle pelli. Ma allora era una confraternita non religiosa, laica? Laica, sì, ecco, no, perché sì, laica, certo. Siccome so che le confraternite generalmente sono religiose. Vabbè, Giovanni, aspetta un momentino che facciamo ascoltare una canzone, così ti passa un pochino l'emozione. Grazie. Bene, allora adesso ti ascolteremo una canzone cantata da Dalida, Laissez moi danser, una canzone che dice: lasciatemi ballare, danzare, ballare, cantare in libertà a tutti i giorni. Ce l'ascoltiamo. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de vivre. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, laissez-moi danser. Eccoci di nuovo in studio, Giovanni? Sono qui. Giovanni? Sì. Tu conosci il francese abbastanza? Oddio, lo sapevo, però se le lingue o le parli, altrimenti poi le dimentichi. Io amo tantissimo... Sì. Vabbè, proseguiamo con la tua storia allora. Proseguiamo. Sì. Allora, come dicevo, Conegliano ha avuto conosciuto questo suo boom economico nel periodo della Serenissima. Importante per Conegliano anche per l'ha avuto la sua fortuna, per la sua posizione, importante posizione che ricopre, diciamo, geograficamente parlando. Perché è la via di era la via di scambio in particolare per verso sulle strade che andavano verso nord, verso il passo del Fadalto, e verso est, verso l'Austria, verso Vienna, diciamo. E per queste strade veniva su i pellegrini innanzitutto, e poi tantissimi mercanti, perché Conegliano era un importante scalo della Serenissima. Era importante scalo perché arrivavano su da mercanti accompagnati dai proprietari, diciamo, dai signori che trattavano le merci, con dei tiri di burro. Loro erano a cavallo, mentre i carreggiatori, che erano detti a portare le merci, arrivavano su attraverso il passo di Lovadina con tiri di buoi, da 8-10 buoi, con carichi di merci. Arrivavano a Conegliano, dopo aver attraversato il passo di Lovadina con delle zattere, quindi c'erano proprio tutta una catena di... Tutto questo avveniva attraverso l'acqua, insomma. Attraverso, ecco, la Piave, il passo di Lovadina, che sono più o meno 25 km da Conegliano. E c'erano i carreggiatori che là aspettavano le zattere cariche di merci, le trasbordavano sui carri e le portavano a Conegliano. A Conegliano le portavano in Borgo Vecchio. Borgo Vecchio che era famoso a quel tempo anche perché c'erano due osterie che cucinavano... Da come ho letto, cose molto molto prelibate, addirittura pesce, granchi, e gamberi, fiume, tante bontà. Le vecchie osterie della volta. Le vecchie osterie. Dove si mangiava bene. C'è un affresco del 1476 di Dario da Treviso, addirittura, che ancora si vede. Addirittura. Su questa osteria al Bo, si chiama Osteria al Bo. E là c'era gestito... Pensiamo, era gestita da un tedesco addirittura, quindi pensiamo come era, Conegliano era una città ricca di traffici, e in questo piazzale dove appunto c'è il Collegio Immacolata che dicevo prima, c'era questo importante scalo dove arrivavano queste merci dal passo di Lovadina, poi altri carreggiatori le caricavano, chi era diretto verso il Fadalto, dove dal Fadalto c'erano altri carreggiatori che continuavano il tragitto e su verso la Germania oppure verso est, verso, ecco, in questa piazza, questa particolarità, mentre l'altra piazza, quella di San Martino, dove dicevo che è al di là della piazza delle Pecorelle, là è sempre stato foro boario fino al secolo scorso, fino a metà del secolo scorso è stato foro boario, dove già il giovedì io ho testimonianze di ragazzi, di un signore che lui è del 25, mi diceva che lui negli anni 30-35 veniva su col nonno, con l'asino e il carro e le mucche per prepararsi già il giovedì per vendere le mucche, per esporre le mucche al mercato il venerdì, perché da sempre Conegliano il suo mercato lo fa al venerdì. Anche adesso. Ho capito. Gli odori sono cambiati rispetto ad allora, perché adesso abbiamo altri odori. Però anche allora, cioè anche nel 1400 c'era questo mercato del foro boario, mentre l'altro mercato, quello normale, diciamo, degli attrezzi, degli utensili che potevano esserci allora, veniva svolto prima in Contrada Granda, che è la piazza Cima, e sulla via 20 settembre, poi si è allargato fino all'attuale, alla strada dove c'è lungo il refosso, la strada che appunto costeggia le mura che va verso Treviso. E questo collegio dell'Immacolata esiste ancora? Sì, è importante. Cos'è, un collegio femminile? È un collegio femminile, però diciamo aperto anche ai maschi, dove fanno degli importanti, cioè c'è un liceo e poi fanno attività del Grest gestito dalle suore. Sì. Adesso non conosco particolarmente le loro attività, so che è molto importante perché fanno molta scuola, ecco. Sai, e poi, prego. Sai, tu parlavi degli odori, io penso che allora ci fossero odori più genuini. Adesso... oddio, dicevano che l'odore i sapori più genuini. Anche gli odori? Adesso c'è odore di benzina, di gasolio. Sì, quello che dicevo prima, nella piazza delle pecorelle, dove a un tempo si poteva sentire quell'odore di pecora, adesso c'è solo odore di traffico, perché c'è la strada che arriva da Tarso, diciamo, l'altra strada che arriva dal ponte della Madonna, e là questo ponte è un traffico terribile, là, gli odori non si sentono più, gli odori delle osterie, delle cucine dell'osteria dal Bola, si sente solo gas di scarico, e purtroppo è così. Se vai in centro, se esci di mattina verso le 8, così ti viene addirittura... di campagna, così. Pensiamo anche però perché allora gli animali venivano usati per il trasporto, anche qua nel centro venivano usati per il trasporto, quindi immaginiamo che odori potevano esserci, perché animali e quindi e rumori, perché dal canto delle galline, dei galli, grugniti del porco, il ragliare dell'asino, con i loro rumori e anche i loro odori, doveva essere una colonna sonora abbastanza particolare. Beh, consideriamo comunque che attorno al 1492, mi sembra, proprio il periodo che hanno ascoltato l'America, tra l'altro, c'erano 3.200 abitanti qui a Conegliano. Però, sì, abbastanza. Sì, perché consideriamo che era solo il centro storico, perché al di qua della mura e quindi del canale Refosso, era tutto, si chiamava il Musile, tutta terra comune, mentre il centro era tipo il Refosso faceva come da linea che divideva i nobili, che erano all'interno delle mura, dal resto dal plebe, sì. Che era al di là del fosso. Al di là del fosso, ma erano tutte terre comuni, tutte terre adibite al pascolo, che sono rimaste fino a quando Venezia ha iniziato il suo declino, perché Venezia, ricordiamo che con tutte le guerre che aveva intrapreso, con la battaglia di Lepanto del 1571, 7 ottobre 1871, che l'anniversario della battaglia di Lepanto, le guerre di Candia, e si è trovata un po' indebitata, quindi cosa ha fatto Venezia? Ha iniziato a vendere le sue terre, a venderle a ricchi signori che avevano perso un attimino il mercanteggiare per mare, perché dopo, in seguito alla perdita anche dell'egemonia con le Spezie, ha dovuto un po' iniziato il suo declino. E questi signori si sono accaparrati dei terreni, portandoli via alla gente, alle terre comuni. Quindi c'è stato un periodo che ovviamente c'è stata tantissima povertà qua nel contado di Conegliano, per questo appunto perdita delle terre comuni. Ma avete tanti comuni attorno a Conegliano, vero? Conegliano è abbastanza vasto. È ricca di comuni attorno, adesso non saprei elencarteli comunque. Potrei elencarteli qualcuno. Oliano, Colalbrigo, Colomberto, abbastanza, è ricchissimo, perché cosa vuoi, adesso abbiamo una densità che è incredibile, ormai ci sono case dappertutto, e un'altra particolarità del paesaggio di Conegliano erano con gli ebrei, Conegliano già a metà del 14, visto che era un importante scalo mercantile, era pieno di mercanti e pellegrini, e tra loro sono arrivati gli ebrei più o meno a metà del 14 secolo. Ebrei che si sono poi insediati nell'attuale via Caronelli, più o meno là dove c'era il ghetto ebraico, appunto. Loro erano importanti perché facevano ottima pasticceria, avevano pelletteria, sellavano i cavalli, però le loro botteghe, dalle descrizioni che ho visto, cioè, doveva esserci un odore terribile, perché loro cosa facevano? Raccoglievano gli stracci della gente, diciamo. Stracci di tutti i generi, andavano a raccogliere stracci per fare cosa? Per fare carta oppure lana, per fare materassi. E cosa facevano? Lasciavano magari la lana, la facevano essiccare al sole, poi la battevano con dei bastoni per far uscire, diciamo, per cardarla come. E quindi immaginiamo che odori potevano esserci allora, visto che la gente non si lavava, quindi cose. Ma che la lana, infatti, la battessero, che ho visto anch'io, cioè anche nei pochi, beh, quanto sarà? Io ho visto qualche volta battere la lana col bastone. Sì, ma adesso sai, dopo con l'arrivo dell'acqua corrente, la gente si lavava. Pensiamo nel 1500, quando che la gente si cambiava, non si cambiava mai gli abiti, e quindi anche loro raccoglievano la gente anche di abiti di cadaveri, oppure possiamo anche immaginare i materassi. Quello che capitava. Cosa capitava. E loro mettevano tutto questo materiale in queste piccole botteghe, poi che insomma... era un po' così. Allora, loro sono stati importanti perché hanno mutato il nostro paesaggio, a parte gli odori, che con la loro cucina particolare, perché loro ogni festa hanno le loro particolarità di cucina, ma poi loro hanno portato la lavorazione della seta, col bago della seta. Allora ecco che sono iniziati i gessi che arrivano. I moreri. I famosi moreri. Mm-hmm. E questi moreri che adesso sono spariti, al posto loro cosa sono arrivati? Se pensiamo, sulle vigne erano sorrette dai famosi moreri. Esatto, esatto, sì. E questi davano ricovero a tantissimi nidi di uccelli. Beh, io ricordo che ero bambino, sono andato in campagna, e allora c'è questi morer, che se ne hanno mangiato per libate e more, ma era pieno di uccelli. Dopo hanno sostituito i morer con pali di legno, poi pali di cemento. Adesso pali di plastica, magari, di resina. Di acciaio, perché devono andare con le macchine adesso a vendemmiare, non vanno più come una volta campando. Manuale. E adesso si va con le macchine. E quindi è cambiato anche il paesaggio sotto questo aspetto, perché gli animali che un tempo erano in campagna, adesso si sono rifugiati tutti in città. Aspetta un attimo che ci ascoltiamo un'altra canzone, Giovanni, poi ritorniamo con te. Va bene. Allora, la terza canzone in programma è cantata da Karima ed è intitolata Come le foglie d'autunno. Ed eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche di questa serata con Giovanni. Prego Giovanni. Sì, allora mi veniva in mente, parlando prima della puzza, loro dicevano a quel tempo che la puzza sta al benessere come una corona in testa ad un re. Quindi, immaginiamoci, però non ci facevano caso. Conseguenze notevoli. Non ci facevano caso assolutamente. Mi viene in mente una cosa, il boom edilizio di un tempo che già nel 1400, cioè stato appena appunto si sono allargati al di fuori delle mura questi borghi, ci sono delle descrizioni che narrano di una fornace che fumava in continuo per produrre mattonelle, tavelle di tutti i generi per questa boom edilizio di quegli anni, di quei secoli intorno al metà del XIV secolo. Nelle fornaci cucinavano la pietra? L'argilla, perché guarda, se pensiamo, le ex cave di Tomasi, non so se chi è di Conegliano sa dove sono lungo la Ponte Bana, che adesso sono diventate una specie di parco ovviamente chiuso, dove sotto ci sono tutte queste discariche, è diventata una discarica, che avrebbero intenzione di metterci dei pannelli solari, adesso vediamo come si svilupperà, che è sul confine tra Conegliano e San Vendimiano. Lì c'era una grandissima cava di argilla, perché le case a quel tempo, adesso si parla di bioedilizia, ma già a quel tempo si faceva gli impasti di argilla e paglia. Abbiamo delle descrizioni di contratti di locazione, addirittura di una casa che è presa in affitto da Tiziano Vecellio, che era appunto fatta con tetto in struttura in legno, e i mattoni erano di argilla e paglia. Bioedilizia, precursori proprio. Bioedilizia, adesso si ritorna. Ecco, perché dopo siamo... se pensiamo le case in pietra iniziano dopo il 1509, dopo la guerra di Cambrai, e abbiamo i primi palazzi, che sono il Palazzo Sarcinelli e il Palazzo Malcanton, che sono appunto del 1518, quindi immaginiamo anche per le vie che rumori potevano esserci, perché arriva la pietra proprio perché prima, come dicevo, c'erano solo paglia, e lo vediamo anche su chi ci vede, lo vede anche sui dipinti di San Battista Cima. Sì, dove si mostrano questi paesaggi, perché ecco la pittura è importante, perché ci dà anche questo aspetto, questi paesaggi fatti di boschi, queste case con il tetto in paglia, cavalli, questo. E c'è addirittura un quadro da cima, mi diceva un professore, che si vede anche una persona col turbante. Addirittura. Sì, vuol dire che c'è stata una città così cosmopolita. Cosmopolita, da sempre, perché se l'osteria del Boa era gestita da un tedesco, c'erano ecco parecchi bergamaschi, perché loro avevano l'abilità di lavorare le pelli. E quindi veniva da lavorarle lì a Conegliano, insomma. Sì, Conegliano, perché appunto essendo una città di punto strategico di via di comunicazione, molti si fermavano qua e si vede che poi si trovavano bene. Si fermavano a lavorare, perché se tutto attorno, cosa vuoi, non c'era assolutamente niente. Il contado c'era attorno, che fino a quando non sono arrivate le fabbriche, che poi sono arrivate le grandi aziende come la Zoppa, la Squadra Guagliano, tutto attorno c'era tutta mezzadria, tutti mezzadri, quindi case coloniche, grandi case coloniche, ma io parlo di a 300 metri dalle mura di Conegliano, case coloniche, ma fino agli anni 80 mi ricordo che c'era ancora la campagna, dove adesso hanno costruito edifici dappertutto, zone residenziali, zone industriali, era tutta campagna, tutte viti, tutti i fossi con le siepi, le famose siepi che poi hanno abbandonato pensando di fare adesso i fossi sono stati sdoppiati. Le siepi erano ricettacolo. Si allaga qua, si allaga esatto, là. I posti esatto. Sono stati indovinati. Una gestione dissennata del territorio. Dissennata. E noi abbiamo voluto cancellare in fretta le memorie. Il passato. Mal ce ne incolse, purtroppo. Veramente, ecco, allora... Ascolta Giovanni. Prego. Scusa se ti interrompo. Prima di chiudere con te... Sì. Che poi la prossima volta ci parlerai da proseguiamo con la cronologia con l'avvento di Napoleone, no? Sì, sì, ecco, poi sì, fai tu perché la tesi ce l'hai in mano tu. Ecco. E poi arrivano nuovi odori, nuovi rumori perché arriva il treno, pensa un po'. Arriva la benzina. Ma io adesso sì, così vorremmo sapere sì. delle tue gesta sportive. No, niente di particolare. No, cioè, io cerco sempre di, visto che c'è da vivere, cerco di vivere meglio che si può, no? Si dice, perché certo. non mi piace così, allora ne approfitto delle occasioni, io sono così. Dove sei andato, in una trasmissione? No, beh, ho partecipato con velisti per caso, con Patrizio Roversi, mi hanno ospitato a bordo di Adriatica, in una trasmissione televisiva, nelle isole Figi e Nuova Zelanda. Emozione? Sì. Beh, anche perché ho avuto modo di conoscere persone sì, belle con la B maiuscola, ecco, belle persone proprio. Tu sei stato anche a Cuba, mi pare, sei stato A Cuba siamo andati su un istituto per non vedenti a portare del materiale dei bambini purtroppo abbandonati, insomma, là c'è tanta miseria e così. Ho fatto parte dell'equipaggio di soli non vedenti che, accompagnati dall'Amerigo Vespucci nel 1998, abbiamo attraversato le famose colonne d'Ercole. Sì. E com'è andato, bene? Sì. No, eravamo una barca a vela di soli quattro non vedenti, avevamo la guardia civile vicina col gommone, mai che andassimo da qualche a sbattere contro le rocca di Gibilterra, però abbiamo attraversato da soli in autonomia queste colonne d'Ercole. Una cosa simbolica proprio, cosa di alta valenza. Per far capire che insomma certo. si può abbattere qualsiasi anche... colonna. Esattamente. E poi oltre a questo cos'è? E dopo lo sci, che è la mia passione, adesso faccio sci da fondo così, perché ho fatto sci alpino, poi purtroppo mi sono anche fatto male, però insomma, niente di grave. E lo sci, ho partecipato al campionato mondiale, ai campionati europei in Colorado, i mondiali in Colorado e gli europei. E come sei arrivato? Non sono stato un grande, mi sono sempre piazzato nei primi 10, ma niente di che, insomma, no, io purtroppo ho la caratteristica che quando sono lì quando ero lì a Canceletto mi emozionavo, come succede adesso qua. Purtroppo, guarda, io ti capisco perché... In allenamento ero bravissimo, e poi infatti mi chiamavano sempre, mi avevano convocato anche alle Olimpiadi, eccetera. Poi quando era la gara io mi sono... L'emozione è importante, non è una cosa forzatamente negativa. Ma finché puoi fai, Giovanni, finché sì, puoi... Io adesso ho una mia barca a vela qui a Caole, quindi ogni tanto siamo qua. Benissimo. Ah, hai la barca a vela tu? Sì. Una piccola barchetta, insomma, siamo... Adesso l'hai messa in pensione, no? Adesso è ferma perché adesso non c'è tanto tempo da uscire, perché fa freddino ormai. Sì. Beh, Giovanni, guarda, intanto ti ringraziamo veramente. Grazie a voi. E anche complimenti per tutto quello che fai, perché grazie so che voi, sei, che sei molto molto attivo, sei uno sportivo. È importante. Assolutamente. La prossima volta ci dirai... quello che farai in seguito, insomma, no? Perché avrai delle... Beh, vediamo, io vivo la giornata, sai, quello che mi capita, così, sono curioso, se c'è qualcosa che mi interessa, cerco di... Va bene, Giovanni. Benissimo. Allora ci sentiamo presto, intanto ti ringraziamo. Ringraziamo. Grazie a voi, buona serata. Giovanni, grazie. Ciao. Bene, adesso ci ascoltiamo la quarta canzone. Che è a te. This is my song di Engelbert Humperdinck. Oh, là, così. Che... Vero nome John Smith. E perché lo chiamano così? E ha cercato proprio di differenziarsi. Why are the stars so bright?

quando ci sarà l'occasione ne leggeremo, vero? Certamente, anche, certamente. Anche quella che a Piazza, che a casa, che che sta a casa è esilarante, naturalmente. Ma è proprio... ti si vede proprio in, in queste campagne. Proprio su queste tradizioni, queste cose. Benissimo. Volevo ringraziare, perché prima non l'ho fatto, anche Giovanni per il suo intervento, che sì, anche se era emozionato, ha fatto un bel intervento, sì, e lo aspetteremo fra qualche... Beh, insomma, appena possibile, benissimo, tornerà con noi. Siamo arrivati alla fine, Antonio? Ci sentiamo l'ultima canzone. Ci sentiamo l'ultima canzone, sì, che è cantata da Dean Marty, Rezzamore, ho detto giusto? Rezzamore, perfetto. Ho detto giusto, bene. Sì, sì, sì. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella, Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta puzzle, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Siamo arrivati al termine. Come sempre, qui è una cosa, come dire, tempus fugit, dicevano una volta. E d'altra parte, queste, come posso dire, questo excursus in tradizioni, anche quest'anno naturalmente stiamo allargando il nostro scope, come dicono, sì, eccetera, sì, perché non solo le città, ma anche le grandi città, i capoluoghi, diciamo, sono carichi di storia, ma a volte anche i piccoli centri di periferia, piccoli per modo di dire, perché Conegliano è un centro di rilevante importanza. Collegava la Germania, collegava... Esattamente. Sì, effettivamente. Vabbè. E quindi siamo così. Benissimo. Allora non ci resta altro che ringraziare naturalmente le nostre amiche e i nostri amici all'ascolto e di ricordarli per la prossima volta. Allora anch'io, Antonio, ti ringrazio. Saluto tutti affettuosamente augurando una buona settimana e come sempre dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità